24 mattino. Sono le 8 e 17 minuti, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Io vi ricordo ancora che tra un quarto d'ora, insomma dalle 8 e mezza, sarà nostro ospite Roberto Saviano, scrittore, autore di Gomorra e dell'ultimo libro, edito sempre da Mondadori, La bellezza e l'inferno. Questo più avanti però, perché adesso c'è l'economia. Soldi e dintorni. Eccoci qua, Deborah Rosciani. Alessandro, buongiorno. Come l'ha definita Carmelo, il tecnico? Ecco, è sorda. Perché ecco, io volevo cominciare con Viva la Prosesto e qua subito mi smonti ogni, iniziativa della giornata. È un trionfo, siamo salvi. Madre. Siamo salvi economicamente, seppure in C2 retrocessi, un dramma quest'anno. Gli unici d'Italia praticamente in questo momento, però, senza nessun intervento del governo, peraltro. Eccoci qua, no, assolutamente. Allora, l'899. Eccolo là, lo conosci bene tu questo numero. No, assolutamente, cioè, lo conosco bene perché lo eviti. Perché lo eviti, ma chissà che non trovi qualche telefonata in uscita dal tuo cellulare, poi vado a controllare. Allora, tranquilla. Oggi parliamo di nuovo, poi vado a controllare, del settore delle telecomunicazioni, perché per la verità in questa giornata ci sarebbero delle buone notizie da raccontare, perché abbiamo saputo che Telecom Italia da oggi riduce il costo delle chiamate da telefono fisso verso tutti gli operatori di telefonia mobile. Da oggi costano meno anche le telefonate in roaming, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi proprio a Soldi e dintorni. C'è però anche una notizia che invece non è tanto buona, un'anticipazione ce l'ha già data Alessandro Milan. Perché? Perché l'incubo delle bollette gonfiate dai numeri con prefisso 899 da oggi è tornato, perché da oggi queste numerazioni risultano di nuovo sbloccate. Allora, cosa succede e a che cosa dobbiamo fare attenzione? Questa mattina ne parliamo con Domenico Murrone, responsabile dell'Associazione dei Consumatori ADUC proprio per il settore delle telecomunicazioni. E tra l'altro, Murrone, naturalmente buongiorno, benvenuto a Soldi e Dintorni, e anche coautore del libro Se telefonando, come sopravvivere a offerte poco trasparenti, bollette gonfiate, guasti e i più comuni inconvenienti. Dico bene? E dice bene. Allora, perché queste numerazioni da oggi sono sbloccate? Rifacciamo un po' di cronistoria di questa vicenda e quali rischi da oggi possono correre i consumatori che magari inavvertitamente fanno questi numeri, che a volte dietro nascondono dei servizi di, per esempio, consulenza di maghi, chat erotiche anche in certi casi, ma a volte possiamo attivare questi numeri anche perché siamo convinti di fare una donazione di beneficenza, Murrone. Ma la questione delle bollette gonfiate va avanti da anni e purtroppo è uno dei tanti scandali italiani. Nella sostanza, per ripercorrere un po' la questione, l'anno scorso l'autorità per le comunicazioni aveva emanato una delibera che aveva bloccato in automatico dai numeri fissi questa enumerazione, ricordiamo 899, 892, numeri satellitari ed altri prefissi. E questo improvvisamente ha questo blocco automatico dell'utente, cioè l'impossibilità praticamente per l'utente di chiamare questo numero, ha ridotto drasticamente il numero delle contestazioni per bollette gonfiate, sintomo evidentemente che era proprio un meccanismo truffaldino che faceva sì che questi numeri venissero, fra virgolette, chiamati. Purtroppo però questa delibera è stata impugnata da qualche operatore davanti al TAR e poi è finita davanti al Consiglio di Stato, il quale Consiglio di Stato sostanzialmente ha detto la delibera non va bene, non era l'AGCOM, l'autorità delle comunicazioni, e quella abilitata a normare in questo settore, bensì l'ex Ministero delle Comunicazioni. Quindi in realtà, come dire, è un blocco di forma, non tanto di sostanza, perché questo non è un passaggio non trascurabile, Murrone, mi pare di capire. No, assolutamente no, perché praticamente noi abbiamo coscienza che Telecom già da qualche mese informava nelle bollette i propri utenti, non solo residenziali, ma anche gli utenti business, quindi piccole aziende, che avrebbe proceduto dal 1 luglio a riabilitare questi numeri perché evidentemente il blocco era illegittimo. E di conseguenza praticamente da oggi in teoria potrebbe ritornare quella giungla di bollette gonfiate che per tanti anni ha rappresentato una vera mazzata per tantissimi, per milioni di utenti italiani. Anche perché, allora, quanto costano, tanto per farci capire? Io conosco solamente quello che è l'ammontare dello scatta la risposta, Murrone, che possono essere anche 15 euro se non sbaglio. No, a dire il vero, tempo fa fu abbassato questo limite di scatta la risposta a 15 euro, che è, portandolo a 1,50 euro, 2 a seconda dei casi, perché la questione è molto complessa tecnicamente. Però facendo numeri a ripetizione, simulando fra l'altro, perché delle volte l'utente non fa proprio nulla per chiamare l'899. Ecco, questo è importante, perché magari io vedo questa numerazione da una pubblicità e così magari mi posso anche allertare, no? Sul fatto che è una numerazione non chiara e posso anche evitarla. Ma quando inavvertitamente mi posso imbattere in questa numerazione, Murrone? Ma i casi sono moltissimi, tipo arriva un SMS, chiamami in segreteria, c'è un messaggio in segreteria per te, chiama l'899. E uno magari non pensa lì, magari pensa che sia la figlia, il figlio, il fidanzato che ha bisogno di una mano e fa inavvertitamente questo numero di telefono. Oppure i famosi i quiz TV fasulli, dove a fronte di una pubblicità che fa intendere vinci se indovini il nome della canzoncina, tipo chi canta la pappa al pomodoro, vince 1000 euro, uno fa l'899, spendeva all'epoca 15 euro e senza rendersi conto che stava acquistando in effetti dei log e delle solerie per cellulare. Insomma, esatto. Sono raggiri a tutti gli strani, poi i numeri del lotto, cioè servizi che vengono pubblicizzati in alcuni casi in modo truffaldino, così come poi ha stabilito fra l'altro l'antitrust, quindi non è una suggestione solo di un'associazione di consumatori che è fissata, ma proprio c'è stata un'autorità che ha detto pubblicità ingannevole, è uno scandalo, bisogna intervenire. Però poi alla fine le bollette gonfiano, insomma. Altre volte invece, scusami, proprio il cliente non fa nulla, l'utente non fa nulla e tramite marchingegni informatici tipo i dialer riescono a insinuarsi nelle proprie connessioni analogiche a internet e questo produce degli addebiti. Insomma, è una situazione, quella della scarsa trasparenza dell'operato di molti operatori delle telecomunicazioni, con la quale ci imbattiamo, sulla quale diamo suggerimenti in continuazione, ma che davvero i consumatori non riescono a scrollarsi di dosso nonostante tutti gli interventi e delle autorità, come Murrone citava, ma anche delle associazioni dei consumatori. Noi tra l'altro avevamo anche denunciato, cercando di spiegare come fare a togliersi da queste situazioni, quando per esempio banalmente guardiamo in televisione la pubblicità di una suoneria che ci piace, la attiviamo immediatamente nel nostro cellulare e poi in realtà attiviamo qualcosa di molto più corposo, che è un abbonamento dal quale non ci riusciamo più a togliere. Sì, assolutamente no, questi sono i famosi prefissi 48XXX e qui mi ricollego a quello che dicevi tu, praticamente ci sono delle numerazioni da utilizzare tramite SMS, quindi da telefonia mobile, che con numeri molto simili, tipo 48580, uno faceva una donazione ai terremotati dell'Abruzzo. Con un numero molto simile, magari 848880, invece si abbonava a un servizio di chat erotica. Quindi bastava una composizione errata per distrazione nella propria tastiera e si finiva nel giro della morte. Sta pensando di intervenire modificando i numeri, i prefissi, che per fare donazioni. Speriamo che questa parziale modifica entri in vigore, perché perlomeno si evita che uno che vuole dare dei soldi alla Caritas piuttosto che a un ente benefico, ecco, eviti di abbonarsi a una chat erotica. Io però volevo mi sembrano, come dire, mondi piuttosto distanti. Sì, Murrone, io ho solamente un minuto di tempo, volevo dare un'ultima raccomandazione sull'899. Allora, perché cose soltanto. Una, sul sito dell'ADUC www.aduc.it c'è una modulistica per chiedere sia al proprio operatore fisso sia a quello mobile la disabilitazione di tutte queste numerazioni, in modo tale che si evitano tutti i rischi. Secondo, che potrebbe intervenire sia il Ministero delle Comunicazioni sia la GCOM, al momento, nonostante questo stato di incertezza, non hanno mosso un dito, quindi di nuovo milioni di utenti italiani si trovano alla mercé di questi soggetti che sono inquisiti da più inchieste in Italia e che comunque è dimostrato che sono operatori truffaldini. Purtroppo non c'è tanta sensibilità da parte dell'organo politico competente in materia, che è il Ministero delle Comunicazioni, che poi è quello che rilascia queste numerazioni, sia anche una certa incapacità di debellare definizione del fenomeno da parte della GCOM. Grazie a Domenico Murrone, responsabile ADUC delle telecomunicazioni. In tutte queste raccomandazioni ce ne metto anche una terza: se vediamo queste pubblicità che iniziano appunto con queste numerazioni, cerchiamo di cambiare canale immediatamente, perché finiamo in un girone infernale. Grazie a Domenico Murrone. Devo dare subito la linea ad Alessandro Milan, perché è pronto Roberto Saviano. Alessandro, eccoci qua, no, ricordiamo Salvadanaio mutui, tante novità sui mutui nel decreto fiscale del governo varato settimana scorsa e oggi le spieghiamo a tutti i nostri ascoltatori. Sono le 8:32, eccoci tornati in diretta, ben ritrovati da Alessandro Milan. Diamo uno sguardo alle notizie in primo piano. È il secondo giorno di lutto a Viareggio dopo l'incidente ferroviario, il numero delle vittime è salito a 16, gli ultimi due sono una bambina di 6 anni e un bambino di 2 anni e mezzo morti in ospedale in seguito alle ustioni riportate. Sono oltre 30 i feriti, oltre 1000 gli sfollati. E c'è stata ieri anche una tragedia aerea. Un Airbus A310 della compagnia Yemenia Air, partito da Parigi, è precipitato vicino alle isole Comore. Sono 152 i morti, ma c'è anche una sopravvissuta, una ragazzina di 14 anni. La politica italiana: Sergio Chiamparino non si candida alla guida del Partito Democratico. Chiamparino ha rinunciato alla corsa che vede per ora impegnati Franceschini e Bersani per dedicarsi agli impegni di sindaco di Torino. Da oggi scendono le tariffe di luce e gas. Con il terzo calo consecutivo da inizio 2009, i consumatori si trovano in tasca 210 euro in più rispetto al 2008. Infine, una notizia dal mondo del calcio: Luciano Moggi torna. L'ex direttore generale della Juventus, costretto ad abbandonare dopo lo scandalo Calciopoli, sarà molto probabilmente consulente del Bologna. Rivolta però dei tifosi rossoblù, che dicono non lo vogliamo, e anche il presidente della Federcalcio Abete dice: Moggi è inibito, rispettiamo le regole. E allora sono le 8:33 minuti, il numero per i vostri messaggi 349-238-6666. Ci sono dei giorni, dei momenti in cui fare il giornalista è davvero anche piacevole. Questo è uno di quei momenti, quando si ha il privilegio di fare una chiacchierata con una persona come Roberto Saviano, che saluto. Buongiorno, ecco, Roberto. Buongiorno, grazie. Grazie a te per essere con noi. Ieri hai avuto l'ennesimo tributo, insomma, di folla, di gente alla Basilica di Massenzio a Roma, al Festival della Letteratura come chiusura, e ti ringraziamo per essere qui con noi. Grazie a voi. Che dire, Gomorra forse è la parola che tutto il mondo conosce, il libro che tutto il mondo conosce, l'ultimo libro sempre edito da Mondadori, che hai pubblicato da pochi giorni, La bellezza e l'inferno. Sbaglio, Roberto, se dico che è un secondo libro, che in realtà non è un vero e proprio secondo libro, sono una raccolta degli ultimi 5 anni. Serve anzi per allontanare l'ansia del secondo libro. È una raccolta di scritti, è un po' un omaggio ai miei lettori, è un modo per dire: in questi 3 anni, nonostante tutto, sono riuscito a lavorare e a scrivere, quindi ho raccolto quello che ho fatto in questi 3 anni. È quasi anche volerti aggrappare, se posso dire, a un'ancora di salvezza, come dire: eccomi qui, scrivo e dunque ci sono ancora. Le storie più disparate sono raccolte. Tu racconti in questo libro di pugili, di calciatori, un calciatore come Messi, straordinario campione, campione anche d'Europa, sì. Giornalisti ammazzati come Giancarlo Siani, Anna Politkovskaja, e artisti come Miriam Makeba, che è venuta a cantare, tra l'altro, e tragicamente a morire proprio nella tua terra. Sì. Qual è il filo comune di tutte queste storie? Ma il tentativo è stato quello di mettere insieme personaggi che avevano fatto del proprio talento la propria salvezza. Lionel Messi, il centravanti del Barcellona, che tra l'altro a Roma in finale segna di testa, lui ammalato di nanismo, insomma, cioè l'ormone della crescita si era bloccato, e va a segnare in finale di Champions di testa, e sembra davvero incredibile. Il suo talento ha permesso a lui, tra l'altro poi alla sua famiglia, di farcela. Un altro, Michel Petrucciani, uno dei jazzisti più potenti al mondo, morto giovanissimo tra l'altro, anche lui malato non soltanto di una malattia di cancro, un cancro alle ossa molto, molto grave, ma anche lui nanetto, e il suo talento l'ha reso capace non soltanto di arrivare alla parte maggiore del pubblico di jazz del mondo, ma anche a fargli avere una vita felice. E queste storie tra l'altro non sono quasi mai storie tragiche, anche se sono storie di malattia, anche se sono storie di morte, sono storie di uomini e donne che hanno, attraverso il loro talento, anche ottenuto una vita felice. E quindi non mi andava di raccontare soltanto storie di sacrificio, perciò uso il termine bellezza. Da Petrucciani, che in qualche modo è l'unico brano inedito del libro, dato originario di Napoli, ho imparato davvero molto. Lui diceva una cosa bellissima: suonare il pianoforte è come fare l'amore, solo che posso farlo in pubblico. E quindi quello che lega questi talenti è la capacità di resistere. Miriam Makeba, verso cui ho anche avuto un fortissimo senso di colpa, perché è venuta a cantare a Castelvolturno ad un concerto in mia solidarietà, e pochissime persone andarono a vederla. Lei, star internazionale, si trovò a cantare davanti a poco meno di 80 persone, perché quel concerto era visto dai cittadini in maniera molto ostile, perché era stato organizzato da associazioni antimafia. e mi ha sempre colpito che il suo disco, con la sua più famosa canzone Patapata, una canzone divertente, ballata da milioni di persone, certo, ebbene il governo sudafricano lo considerava un disco reato. Mi spiego, se trovavano il disco in casa, se ti trovavano quel disco in casa, ti potevi fare 6 anni di galera, perché era la prova dell'appartenenza all'African National Congress, il partito di Mandela all'epoca clandestino. Quindi mi colpiva raccontare la storia dove una canzone come Patapata per anni è stata vietata e ha considerato addirittura a possedere un reato. Io prendo spunto anche da un'altra storia che hai raccontato per farti una domanda, è quella di Felicia Bartolotta. Per chi non lo sapesse, Felicia Bartolotta era la madre di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia perché con la sua radio out a Cinisi denunciava badalamenti e mafiopoli. Sì. Tu scrivi in una bella intervista a Felicia qualche anno fa, fanno la solita domanda, una domanda che fanno sempre ai meridionali, una domanda screanzata ma ormai considerata normale quando si interloquisce con un uomo o una donna del sud: perché non si trasferisce? Felicia ha dato la sua risposta, vorrei la tua, perché di recente anche tu avevi detto forse vado all'estero. Guarda, anche molti ascoltatori ce l'hanno scritto. Andrea Mura, per esempio, ci ha mandato una mail e ci ha detto: io, come tanti altri, ho fatto le valigie, sono cresciuto nei luoghi di Roberto e ho cercato luoghi migliori in cui far crescere i miei figli. Ma per me andare via non significa tradire. Io stesso più volte ho fatto dichiarazione, insomma, che non ce la facevo più e che mi sarei trasferito. L'ho fatto anche per lunghi periodi, sono stato all'estero per continuare appunto a scrivere, a volte semplicemente per tentare di respirare. Mi rendo conto che sempre più andare via diventa l'unica possibilità di avere una vita migliore. Io non credo nelle logiche di sacrificio né in quelle di martirio, quindi penso che se una persona, siccome ha una vita sola, vuole campare meglio, vuole far vivere meglio i propri figli, aveva il diritto di andare via senza sentirsi in colpa. C'è una sofferenza in tutto questo, ecco perché la domanda poi diventa screanzata, cioè che è automatico, cioè andare via diventa automatico, diventa una scelta obbligata, necessaria, unica. Quello è davvero pericoloso e anche tragico, perché spesso al sud, in molte realtà, per fortuna e non tutte, resta chi è rassegnato, resta chi ha capito che ormai bisogna venire a patti col circostante. E addirittura in passato, per esempio, emigravano alla forza lavoro, cioè operai, edili, giovani che andavano a fare metalmeccanici. Adesso è quasi il contrario, adesso emigrano i laureati, emigrano gli operai specializzati, e mentre in passato c'era una sorta di velata vergogna da parte delle famiglie che avevano un figlio emigrato, come dire: mi dispiace che sono stato costretto ad avere un figlio emigrato, diceva il padre in piazza. Oggi è il contrario. Oggi, se non hai il figlio che è emigrato al nord, ti senti un po', come dire, un po' sfigato, un po' come una famiglia che non ce l'ha fatta, perché è avere il figlio a Milano, è avere il figlio a Torino che significa che le cose stanno andando bene. E tutto questo mi dispiace molto. E mi è venuto in mente in questo momento, mentre stiamo parlando, un questionario che è stato dato qualche mese fa, anzi qualche anno fa, l'anno scorso precisamente, a molti studenti meridionali del nord Italia, dove gli chiedevano cosa gli mancava del sud. Quasi tutti rispondono, e sembra incredibile, l'albero d'arancio. È incredibile questa cosa, la risposta non è il mare, non è la famiglia, ma è un frutto. E mi ha molto colpito, perché poteva essere la risposta dei loro nonni. In qualche modo l'emigrazione interna, sud-nord, il fatto che la maggior parte delle università del nord si reggono grazie agli iscritti del sud, è uno dei grandi rimossi della nostra agenda politica. Tu, grazie a Gomorra, sei anche andato a Cannes, insomma è diventato anche un film di grandissimo successo. Sempre nel libro racconti quella tua presenza a Cannes, e dici: a un certo punto c'è un brindisi, non ci sono più abituato, tante persone intorno, sorrisi, brindisi, mi irrigidisco e sembro un pupazzo di cera, non sono più abituato a mangiare se non con la mia scorta. Tu credi che ci sarà un giorno in cui ti potrai riappropriare della normalità delle piccole cose? È proprio quello in cui spero ogni giorno. Io so bene che questa mia condizione è anche una condizione di privilegio, cioè ricordo che l'Italia è il secondo paese dopo la Colombia per persone sotto protezione. Ricordo che la mia condizione è una condizione diffusa e condivisa da moltissime persone, tra cui anche molti miei cari amici sono in questa situazione. Quindi non dimentico che il fatto questa mattina di poter parlare, di poter scrivere, mi mette in una condizione di privilegio, ma nonostante questo, dopo 3 anni davvero a volte non ne posso più. E spero sempre di trovare una strada, una qualche porta, che non so bene dove andare a cercare, che mi porti ad una vita più o meno normale, costruire una famiglia, avere la possibilità di passeggiare, che è la mia ossessione prima, nel senso che sarà la prima cosa che farò qualora dovessi riacquistare la libertà. In quel caso appunto Cannes fu davvero stranissimo, perché il governo francese mi autorizzò ad andare, ero sì sotto protezione, ma in realtà fu proprio una serata quasi normale, e quello che è terribile è che appunto tutti ridevano, contenti per la vittoria del Grand Prix al festival, e io ero, diciamo, abbastanza irrigidito, ed è questa la cosa più grave che ti fanno, cioè lentamente iniziano a toglierti tutto. C'era una metafora che usava un vecchio sindaco delle mie parti, cioè il gioco dello Shanghai, le bacchette cinesi, sì. Te ne tolgono una per una, in realtà è quello il modo, fin quando non, tra l'altro ti rendono anche, questa è una cosa che io ripeto spessissimo, ti rendono anche un uomo peggiore, cioè vivere una condizione del genere non ti rende un uomo più saggio, più sano, più allegro, più simpatico, ti rende diffidente verso il mondo, ti rende ostile anche verso persone invece che vogliono avvicinarti perché ti vogliono bene, ti rende rabbioso, nervoso, ossessivamente interessato soltanto al tuo lavoro. Ecco, di questo io ho molta paura. Eccoci qui, siamo ancora in diretta con Roberto Saviano, l'autore di Gomorra, l'autore de La bellezza e l'inferno, uscito sempre edito da Mondadori da qualche tempo. Io ricordo tra l'altro che tutta questa chiacchierata, ancora per qualche minuto, sarà già sul nostro sito internet, il sito di Radio 24, radio24.it, subito appena terminata la chiacchierata. Roberto, uno dei momenti forse più poetici, epici, straordinari per te è stata sicuramente la presenza all'Accademia di Stoccolma, quando lì dove viene assegnato il Nobel del 1901, e lì Salman Rushdie, un tuo grande amico oltre che grandissimo scrittore e accomunato a te anche nella vita, insomma, sotto scorta, ti ha detto: continua ad avere fiducia nella parola, oltre ogni condanna, oltre ogni accusa. Ti daranno la colpa di essere sopravvissuto e non morto come dovevi. Fregatene, vivi e scrivi. Le parole vincono. È davvero, può essere una colpa essere sopravvissuti? Beh, un po' sì. Un po' sì, soprattutto nel mondo degli addetti ai lavori, dove io ho subito e subisco, come Salman, sempre con grande sofferenza, quella specie di ghigno diffidente che appena passi o esce qualcosa di tuo ripete sempre la stessa cantilena: ma chissà, questo è un furbetto, ma quale rischio, sono altri quelli che rischiano, oppure questa è tutta un'operazione per piazzare qualche copia. E successe a me, successe a Salman, successe ad Anna Politkovskaja, di cui scrivo in questo libro un ritratto, soprattutto cercando di ricordare i tentativi di diffamazione che lei subì quando le fu avvelenata in aeroporto, anzi mentre era in aereo, subito riuscì a sopravvivere a questo avvelenamento, fece una conferenza stampa in Europa e la parte maggiore i giornalisti insomma blaterò dicendo: vabbè, dai, Anna Politkovskaja ha visto troppo 007, gli avvelenamenti con il cibo dato in aereo gli sembrava davvero troppo. Invece poi, quando è stata ammazzata, in un'intervista il marito disse una cosa terribile, disse: meno male che è finita così, a che l'intervistatore rimase basito, lui specificò dicendo e precisò dicendo: guardi che qualche giorno fa hanno tentato di sequestrare Anna, narcotizzarla e farle delle foto porno. Come spiegava, come avrebbe spiegato Anna al mondo che quelle foto erano state rubate e lei era stata drogata? Così almeno non hanno ucciso anche le sue parole. È una frase che mi ha terribilmente sconvolto, per mesi, insomma, ci ho riflettuto, l'ho tenuta tra le tempie, e quando Salman all'Accademia Nobel è la prima cosa che dice, che mi dice, quando appunto sale sul podio lì all'Accademia, un'emozione anche per lui perché è considerato comunque il tempio, l'Olimpo della letteratura mondiale, la prima cosa che dice: io porto ancora le ferite di queste accuse, le accuse di chi, moltissimi colleghi, gli dicevano: porta i fiori sulla tomba di Khomeini, lui, facendoti la fatva, ti ha reso uno scrittore di fama mondiale per un libro che sarebbe arrivato a poche persone. Posto che è vero, è indubbio che entrare in un conflitto del genere sul piano mediatico ti dà un'enorme visibilità. Il prezzo da pagare però è enorme, non solo enorme, e poi soprattutto non sei tu a deciderlo. Non sei tu autore ad innescare tutto questo. Per esempio, chi sono i tuoi amici oggi? Hai amici? Io non so se ho proprio amici. Ho, diciamo, delle persone che sicuramente mi vogliono bene, di cui io mi fido moltissimo. Sono quasi sempre persone con cui lavoro. Un amico di cui ho fiducia totale e incondizionata è sicuramente Raffaele Cantone, un PM a straordinario, certo, magistrato straordinario. Sì. E come comunichi col mondo? Beh, tu lo racconti nell'introduzione, anche ce la racconti questa, come trova una casa, se trova una casa, Roberto Saviano? L'ho scritto nella prefazione perché purtroppo, come tutte le cose tragiche, hanno anche un risvolto ironico. E ogni volta che io andavo in una casa a vedere una casa da affittare, tra l'altro devo dire che mediavano i carabinieri, il meccanismo funziona così: un comando dei carabinieri contatta il proprietario di casa, il proprietario di casa quasi sempre è soddisfatto perché dice: beh, cavolo, i carabinieri garantiscono, quindi verrà una persona corretta, pagherà puntuale, contentissimi, si catapultano e dicono subito: sì, certo, ma certo. Quando arrivano le auto blindate sperano ancora, perché pensano sia un politico, quindi ancora meglio. Quando scendo io la faccia cambia immediatamente. A Napoli i commenti erano meravigliosi, era tipo, dicevano: oh, dottore, massima stima, però io tengo già tanti guai, vi mettete pure voi in mezzo, per favore. Oppure: no, dottor, fosse per me la casa pure gratis, però tengo figli, quindi non ve la posso proprio dare. Sistematicamente c'è sempre una scusa. Addirittura quelli che dicono: ecco le chiavi, però forse è meglio che non ve le dia, perché i vicini di casa sicuramente farebbero un caos enorme, inizierebbero a raccogliere firme, sapete, qua tutti hanno paura. In ultimo ci sono quelli che ti danno la casa e te la fanno pagare tre volte tanto. Dicono: beh, dottore, io la casa ve la do, però ognuno si prende i suoi rischi e il rischio costa. In verità, col tempo ho capito una cosa, che questi che rifiutano casa, di darmi la casa, non lo fanno per paura, usano il termine paura perché è un termine nobile, importante, a cui non si può aggiungere altro. Cioè, beh, hai paura. In verità c'è ben altro. Darmi la casa significa innanzitutto stare dalla mia parte, e in certi territori, anche Napoli, non è una cosa piacevole, dove l'amministrazione politica mi ha sempre odiato, dove insomma vengo considerato appunto uno che ha speculato, si è fatto i soldi sulle contraddizioni di Napoli, quindi stare dalla mia parte non è una cosa insomma in cui loro voglio trovarsi. E poi c'è un'altra cosa: io sono scortato 24 ore, significa darmi la casa, significa avere i carabinieri per le scale, i carabinieri sempre fuori, e questo significa non sicurezza come uno può pensare, ma soprattutto controllo. Quindi questi che vogliono far entrare in casa chi vogliono, far uscire dalla casa chi vogliono senza essere osservati, si trovano invece sempre dei carabinieri che magari non li pensano proprio, però tutto sommato sono lì. Tu chiudi il libro, sono le ultime tre righe: ringraziando la tua famiglia, sperando, scrivi, che mi abbia perdonato per tutto quello che è stata ed è costretta a passare per colpa mia. Perché la vivi come una colpa? È una colpa davvero forte che senti? Beh, in verità, al di là della retorica romantica e di quello che uno può pensare, è davvero una colpa far cadere sui propri familiari una scelta individuale, e tra l'altro neanche avendole discusso con loro, cioè loro non sapevano neanche che io stavo lavorando a Gomorra. Si sono trovati con questo libro all'inizio, come dire, non successe niente, quindi i primi tre mesi vabbè, avevo fatto un libro, poi l'inferno. Mio fratello ha dovuto cambiare vita e città, la mia famiglia, mia madre insomma viveva una situazione di grande difficoltà e anche lei insomma di relativa protezione. Alcuni familiari sono stati costretti a prendere distanze da me pubblicamente per non avere problemi. La colpa purtroppo esiste, ed è quella appunto di aver costretto loro ad una vita difficile, circondati spesso dalla diffidenza anche loro, ma senza, a differenza mia, senza la soddisfazione di poter parlare, di poter ricevere solidarietà, di poter fare di tutto questo lavoro, impegno. Loro ne subiscono soltanto il lato buio, senza averne neanche un po' di luce, e io sento continuamente il senso di colpa e perciò, come dire, in qualche modo ogni volta che posso ricordo e chiedo scusa per quello che ho fatto. Allora, siamo quasi in conclusione. Scrivi sempre a pagina 193 del libro, sempre dopo che Salman Rushdie ti disse quelle parole: tutte le giornate passate in una stanza, le nocche sbattute contro le pareti, la diffidenza verso tutti, la sensazione che tutti mentano e tradiscano, gli insulti, le accuse, troppo esposto, poco esposto, è tutto falso, è tutto costruito, quelli che senza vergogna dicono dovevi stare zitto, te la sei cercata, sei un furbetto, molti vivono come te, non ti lamentare, è colpa tua, sei un divo, sei una merda, sei un cialtrone, sei un copione, le scritte sui muri, gli sputi per strada, tutte le persone che sono sparite alla prima difficoltà, gli amici pronti a giudicare le tue assenze mentre giocano alla PlayStation. È questo l'inferno di Saviano? In verità sì, in tutto sommato è un piccolo inferno rispetto a chi magari ha vissuto come scrittore in altre parti del mondo il carcere o i processi, mi ricordo come Kenza Arawiwa, per esempio, scrittore nigeriano. Detto ciò, il mio quotidiano è questo, è tornare a Napoli al comando e sentire gli insulti appena scendi dall'auto. È stato quella scena della PlayStation, è stata molto vera. Una volta tornai a casa da un vecchio amico perché i primi anni della mia situazione mi ostinavo a cercare una qualche solidarietà dai vecchi amici, perché erano quelli di cui, sbagliando, mi fidavo. Quindi entrai in questa stanza dove c'era questo ragazzo che, mentre continuavo a giocare alla PlayStation, disse: vabbè, ma tutto sommato stai cercato, ma stai continuando a fare sto fatto, insomma, stai continuando sempre con questa ostinazione, come dire, c'erano mille strade, no? E continuavo a giocare. È un'immagine che non ho mai dimenticato. La bellezza in 10 secondi ce la sai descrivere? Resistenza, libertà e possibilità di capire che nonostante tutto la verità esiste. Io ti voglio davvero ringraziare, ci hai fatto un bel regalo essere qui questa mattina. Roberto Saviano, La bellezza e l'inferno, Mondadori, grazie davvero, e un abbraccio forte, e continua a scrivere, questo ci sicuramente. Provo. Grazie a Roberto Saviano, è stato con noi, trovate tutto sul web da questo momento, 2 minuti, e la potete riascoltare. Non mi resta che dire grazie a Alessandro Marcotulli e Laura Marchesi in redazione, Carmelo Lauricella in regia. E la linea va a Oscar Giannino, la versione di Oscar. 9 in punto, la versione di Oscar. Noi ci sentiamo domattina.